Storiacce di Raffaella Calandra. Sento una ragazza gridare, dire di non sparare, poi sento subito due colpi di pistola. Immediatamente mi affaccio alla finestra e vedo due persone accasciate a terra, imbrattate di sangue, e due scappare via. Il boss di Spada alza gli occhi ai balconi e invita tutti quanti in malo modo a entrare dentro perché lo spettacolo era finito. Tutti rientrano dentro e io rimango lì, unica testimone oculare. Non siamo nel cuore dell'Aspromonte, non siamo in un paese della Sicilia degli anni Ottanta, siamo a 22 chilometri da Roma. E anche qui c'è la mafia? Di sicuro ci sono state sparatorie, ci sono state minacce, di sicuro si vive in un clima di omertà, di sicuro per anni c'è chi ha fatto affari e ha potuto contare su connivenze e appoggi, anche politici. Di sicuro qui l'amministrazione è stata sciolta per infiltrazioni e c'è chi è costretto a vivere sotto scorta per aver visto, parlato e denunciato. E questo al di là di quanto opposte sentenze hanno stabilito sull'esistenza dell'aggravante mafiosa. Benvenuti ad Ostia, il paradiso delle regole ribaltate, e da qui parte questa puntata di Storiacce. Da un punto di vista criminologico, noi a Ostia abbiamo una rappresentazione criminale che è molto, molto assimilabile a quella di alcuni paesi calabresi o siciliani, con una o due famiglie organizzate molto saldamente, che hanno a loro disposizione gruppi minori satelliti con i quali sono federati, che li utilizzano e che hanno anche imparato del metodo mafioso, non soltanto l'esercizio della forza di intimidazione, ma anche la capacità di fare relazioni. E quindi a Ostia hanno avuto la capacità di entrare dentro al municipio, agli apparati amministrativi. Ostia come un paese della Calabria, feudo dell''Ndrangheta. Quella che può sembrare una provocazione è invece una lucida analisi del procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino, che al di là delle strette valutazioni giudiziarie dei tribunali, riconosce nella cittadina laziale dinamiche e caratteristiche tipiche delle organizzazioni criminali tradizionali. E il punto è proprio questo. Al di là delle polemiche sulla valutazione tecnica dei giudici, sugli estremi cioè per il riconoscimento o meno dell'aggravante mafiosa, il 416 bis per dirla in gergo tecnico, che cosa davvero succede in questi territori? Ad Ostia, come in alcune periferie romane, dove si è festeggiato dopo le condanne pesanti nel processo Mondo di Mezzo solo perché cadeva l'ipotesi mafiosa, succede che personaggi vari si spartiscono affari, come quelli legati al lungomare di Ostia. Succede che si costruiscono una propria rete di appoggi e informatori e arrivino fino alle minacce se qualcuno rompe il silenzio costruito negli anni. Lo ha fatto una collega, ad esempio, Federica Angeli, che dopo aver raccontato per Repubblica quello che succedeva sotto le sue finestre a Ostia, dove il 5 novembre si torna a votare, è stata minacciata, sequestrata e costretta a vivere sotto scorta. Si respirava un'aria molto molto pesante, dove si aveva paura in giro a fare i nomi, il problema criminalità non esisteva, sembrava un'isola felice con regole capovolte. Io l'ho sempre chiamato un paradiso abitato da diavoli. Quali erano queste regole capovolte? Che cosa c'era in questo paradiso abitato da diavoli? Forte legame tra la politica, la pubblica amministrazione, la criminalità e il mondo balneare. Emblematico, proprio che salta agli occhi, è naturalmente il lungomuro di Ostia, dove gli imprenditori balneari di Ostia hanno fatto ciò che volevano all'ombra di questo muro che impedisce ai cittadini di vedere il mare. Hanno costruito abusivamente ristoranti che avevano magari il permesso per 40 metri quadri, sono diventati 250. Hanno costruito villette dove trascorrere l'estate sul nostro mare. Con la complicità della pubblica amministrazione riuscivano ad avere delle concessioni che superavano addirittura le direttive europee, la Bolkestein, che fissava un tetto al 2020, noi abbiamo imprenditori di Ostia che ce l'avevano fino al 2050 le concessioni. E poi in questo tessuto, diciamo già dalle maglie abbastanza larghe, si sono infilati via via tutti i clan e le famiglie criminali, quindi ognuno aveva questo suo affaccio al mare. Il clan Fasciani, la famiglia Spada, per sbrogliare qualsiasi cosa, dalla pratica veramente burocratica al favore per riuscire a avere un posto in ospedale, bisognava far capo a queste famiglie. Ecco, quindi proprio una spartizione del territorio e le classiche regole che abbiamo visto altre volte applicate a luoghi, diciamo, delle mafie cosiddette tradizionali. Ci sono state opposte sentenze anche su Ostia a proposito del riconoscimento o meno dell'aggravante mafiosa. Ecco, ma perché il racconto di quella che è una cittadina a pochi chilometri da Roma ha portato a te, cronista, ad avere anche tanti problemi, ad essere minacciata e a dover vivere sotto scorta? Per troppo tempo tutti quanti, noi, per noi intendo noi anche categoria di giornalisti, poi le forze dell'ordine, poi la società civile, abbiamo comunque chiuso gli occhi. Quando per troppo tempo si chiudono gli occhi, si dà per assodato che quella realtà sia la realtà giusta. E quindi chi tenta con una penna, con un'azione politica di capovolgere una situazione ormai consolidata viene visto come il diavolo. Quindi io, scrivendo questa mia inchiesta e peraltro assistendo 20 giorni dopo la conclusione di questa mia inchiesta, in cui ricostruivo sommariamente tutto ciò che ti ho appena raccontato, quindi tutti questi interessi che si intrecciavano con la politica che aiutava il criminale che aiutava il balneare che si rivolgeva alle forze dell'ordine per cose illegali e otteneva permessi, ecco, tutto ciò sommato a una sparatoria, a un tentato duplice omicidio di cui sono testimone oculare, questo ha fatto di me una persona, il nemico sostanzialmente di quella Ostia. Ecco Federica, ma ricordiamolo, qual è stata la sparatoria di cui si è stata testimone? Dunque era il 16 luglio del 2013 e io ero a casa, perché io sono nata e cresciuta peraltro a Ostia, e sento una ragazza gridare, dire di non sparare, poi sento subito due colpi di pistola. Immediatamente mi affaccio alla finestra e vedo due persone accasciate a terra, imbrattate di sangue, del Sodali, del clan Triassi, che è uno dei tre clan su quel territorio, e due che erano gli Spada, scappare via. Erano affacciate tantissime altre persone, quindi siamo a Ostia, 22 chilometri dal centro di Roma. Il boss di Spada alza gli occhi ai balconi e invita tutti quanti in malo modo a entrare dentro, perché lo spettacolo era finito. Tutti rientrano dentro e io rimango lì, unica testimone oculare. Adesso a fine novembre dovrò affrontare, dopo 4 anni, questo processo. Se tutti quanti gli abitanti almeno del mio quartiere fossero andati a testimoniare, a raccontare quello che io avevo visto, così come loro, probabilmente ora la mia vita non sarebbe così. E cos'è tutto questo? Voi come lo chiamereste? Affari e favori tra imprenditori, pubblica amministrazione e clan, silenzi consolidati e paure sotterranee. Che cos'è tutto questo se non uno spazio in cui tutto si mescola e si confonde, proprio come diceva il vecchio pentito di Cosa Nostra, Antonino Giuffrè? I processi vengono celebrati su specifiche questioni, si sa, su determinati reati e alla ricerca esclusivamente di personali responsabilità. Ma allargando lo sguardo dalle aule dei tribunali al territorio, non si riconoscono forse dinamiche e caratteristiche di un metodo mafioso, anche se a volte non riconosciuto dalle corti? La storia criminale italiana di sicuro racconta anche di persone che si sono spostate, come gli interessi e i soldi, fuori dalle regioni delle mafie tradizionali, e racconta anche degli sconvolgimenti portati dal fiume di soldi del traffico di cocaina. E allora bisogna forse alzare lo sguardo, tornare sul territorio e anche alla storia per provare a capire cosa succede in alcune realtà. E allora traccia due linee parallele il procuratore aggiunto Michele Prestipino nel raccontare l'evoluzione di alcuni fenomeni criminali. Due linee evolutive. Una, qual è stata l'evoluzione anche del fenomeno mafioso, la famosa linea della palma di Chassaigne a memoria, e dall'altro come sono evoluti certi fenomeni di corruzione. Viaggiano parallele. Nel corso degli anni gruppi, organizzazioni criminali mafiosi importanti, cioè quelle tradizionali, ovviamente in vario modo e in tempi diversi, hanno accumulato delle ricchezze straordinarie, delle ricchezze che noi non riusciamo neppure a immaginare per livello di quantità, come dire, di qualità della composizione del portafoglio. Non potevano essere spese, investite nei territori di origine di queste organizzazioni. Le ricchezze immense dell''Ndrangheta non si possono investire nella provincia di Reggio Calabria, e le ricchezze delle famiglie e delle élite mafiose di Cosa Nostra, si potrebbero fare tanti nomi, dai Graviano ai Madonia a scendere, certo non sono rimaste tutte a Palermo. queste ricchezze hanno camminato, sono, come dire, hanno risalito il territorio italiano e non solo, e sono state affidate nelle mani in parte di soggetti singoli che hanno operato a Milano, a Roma, cioè laddove, diciamo, si presentavano le opportunità migliori, più proficue, più redditizie di investimento. Dall'altro sono finite anche, e questo vale molto per l''Ndrangheta, nelle mani non più di singoli investitori, cioè di gente che si presenta con la valigetta e con i contanti all'imprenditore in difficoltà, ma sono finite nelle mani di veri e propri gruppi che si sono trasferiti dai luoghi di origine, hanno, come dire, messo radici, si sono stabilizzati fuori dai territori di origine, Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, la città di Roma. È accaduto un altro fenomeno, che il monopolio del traffico internazionale di sostanze stupefacenti, in particolare della cocaina, è finito nelle mani di alcune famiglie potentissime dell''Ndrangheta, che hanno, come dire, il know-how specifico, i contatti e le relazioni con i grandi broker, hanno una serie di canali privilegiati con i paesi produttori e sono diventati, come dire, veri e propri intermediari internazionali in un fenomeno importazione di quantità importanti che stoccano anche in paesi stranieri e che poi arrivano non soltanto in Italia. Questi traffici, che non è che si fanno a Reggio Calabria o si fanno a San Luca, le nostre indagini ci dicono che questi signori si incontrano nei grandi alberghi romani, probabilmente anche a Milano, certo non a San Luca, non a Platì e né sul lungomare di Reggio Calabria. Dopo lo scioglimento per mafia, a Ostia si torna alle urne. E se quello delle mafie tradizionali non fosse un nuovo, il terzo, forse grave ritardo nella valutazione dei fenomeni criminali, da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Qui ad Olimpia sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. I campioni dello sport, le loro imprese, le loro storie, i loro segreti. Scopriteli a Olimpia, la città dello sport, quest'anno con un ospite d'eccezione. Sono Stefano Tirelli. Seguiteci qui a Olimpia, alla scoperta delle menti dei campioni. Sono Dario Ricci. Vi aspetto a Olimpia, miti e verità dello sport, ogni domenica alle 20:30, qui su Radio 24. Storiacce. Nel corso dell'inchiesta io entrai proprio in uno dei lidi che era stato preso da questa famiglia e estorto alla famiglia precedente, un lido bellissimo di Ostia, e fui tenuta sequestrata per circa 2 ore da 2 esponenti del clan che mi dissero che mi avrebbero ucciso se avessi scritto questa inchiesta. Ma dopo tutta anche la testimonianza, dopo l'uscita dell'inchiesta, io ho avuto varie intimidazioni, la benzina sotto la porta di casa, io entro in un bar di Ostia, loro entrano in un bar di Ostia avvertiti dal barista, oppure mi notano passando con la macchina, quindi si mettono sotto la mia finestra a guardare, a fissare il mio balcone, fanno il segno della croce ai miei figli. Tuttavia per il momento il fastidio è reciproco di abitare entrambi a Ostia, loro sperano che io me ne vada e che lasci Ostia, l'hanno manifestato pubblicamente su Facebook più volte, e io ovviamente rimango a Ostia e spero che siano loro prima o poi a demordere. Si vive così anche a pochi chilometri da Roma, non solo, nel cuore della Calabria e della Sicilia. Si può essere minacciati e circondati dal silenzio anche nel cuore dell'Italia, dove nessuno avrebbe forse immaginato di parlare di mafie, e dove però si è arrivati pure allo scioglimento dell'amministrazione proprio per infiltrazioni. Siamo ad Ostia, terra dei Falciani e degli Spada, città di affari all'ombra del muro che toglie la vista del mare e copre interessi a lungo mescolati, come ha raccontato anche nella prima parte di Storiacce la collega Federica Angeli. Anche su Ostia le cronache giudiziarie hanno registrato sentenze diverse rispetto all'attribuzione della patente di mafia ai fenomeni criminali individuati, come è successo anche su Roma e sul cosiddetto mondo di mezzo. Prima la Cassazione la riconosce, l'aggravante mafiosa, poi nel troncone principale i giudici di primo grado invece la negano. Eppure queste opposte sentenze, riflette con Radio 24 Michele Prestipino, procuratore aggiunto di Roma, sono sintomi di una situazione fluida e difficile da valutare. Ci sono ovviamente pochi punti di riferimento solidi, dobbiamo metterci d'accordo sui parametri fondamentali di interpretazione. Sulle mafie tradizionali noi sappiamo molte cose, le sappiamo da un'epoca abbastanza recente rispetto al periodo, al lasso temporale esistenza delle mafie tradizionali. Per le nuove mafie siamo ancora molto più indietro, perché ovviamente è fenomeno in via di evoluzione, probabilmente sentenze anche di segno diverso rappresentano da questo punto di vista probabilmente la dimostrazione più sintomatica di quanto siamo di fronte a una situazione fluida. Situazione fluida, sentenze diverse, un quadro dalla difficile valutazione tanto a Roma quanto nella vicina Ostia, dove il 5 novembre si torna alle urne dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, dopo anni di accordi intrecciati in silenzio tra clan, affaristi e corrotti della pubblica amministrazione. Così uno dei principali cambiamenti introdotti dal commissario prefettizio nella cittadina laziale è stato cercare di rendere tutto più trasparente, tracciando ad esempio i movimenti e gli spostamenti di chiunque entrasse in municipio. Il clima è sicuramente, da un punto di vista strutturale di pubblica amministrazione, più garantito, perché una delle determine che ha fatto il prefetto è quella di non far entrare nessuno al municipio che non sia registrato, e all'entrata deve dire in quale ufficio va, perché prima chiunque poteva entrare, andava dai vertici, dai direttori apicali e chiedeva favori a destra e manca. Ecco, adesso c'è una tracciabilità di chi si muove nella pubblica amministrazione, che può sembrare banale, ma in un posto come Ostia. Molte cose sono state avviate anche sulla decadenza di concessioni balneari, dove appunto i padroni del mare hanno fatto il buono e il cattivo tempo. Bisognerà vedere chi salirà al potere, se porterà avanti questo importante lavoro che è stato, come dire, iniziato, ma non c'è stato il tempo di terminarlo. Un cambiamento rispetto ad un passato dove nel silenzio tutto era consentito e dove a proliferare erano soprattutto gli interessi di consorterie varie. Questa, come altre realtà che non sono feudo originario delle mafie tradizionali, è diventata un territorio dove tutto si mescola. Il know-how, diciamo così, di chi è affiliato ai clan storici, la necessità di investire soldi, i tanti soldi soprattutto dei traffici di stupefacenti, la facilità ad entrare, soprattutto attraverso la corruzione, dentro gli apparati pubblici e dentro la burocrazia. La posizione però dei magistrati rispetto al codice antimafia, appena approvato, che estende anche ai corrotti norme usate per i boss, cioè la possibilità di sequestrare e confiscare i beni, è molto scettica, e lo dicono chiaramente i magistrati come Michele Prestipino. Anch'io sono preoccupato dal fatto che oggi, per stigmatizzare determinati fenomeni criminali, li dobbiamo necessariamente assimilare alle mafie. Io penso che, per esempio, la corruzione sia un fenomeno gravissimo, però noi possiamo dire che è un fenomeno assolutamente esecrabile, assolutamente pericoloso, dannoso per la società, per il bene comune, la collettività, eccetera, senza dover assimilare la corruzione alla mafia. Il guardasigilli Andrea Orlando difende invece la sua scelta, ospite di Storiacce nel dibattito organizzato qui nella nostra redazione con i procuratori di Roma e Milano, Pignatone e Greco, e i capi delle rispettive direzioni distrettuali antimafia, Ilda Boccassini e Michele Prestipino. Se è vero che in qualche modo ci sono dei punti acquisiti sui quali non si tornerà indietro con molta probabilità, cioè che al sud la mafia viene avvertita ormai come fenomeno criminale, non come fenomeno sociale, è altrettanto vero che, per esempio, al nord la possibilità di ritorni al negazionismo ci sono. Io ho ritenuto che in questo momento sarebbe stato un segnale anche politico sbagliato non approvare il codice antimafia prima della fine della legislatura. Quando ci sono cose che pungono direttamente alla magistratura ce lo fate tempestivamente notare prima dell'approvazione definitiva. Adesso magari, se ce lo dicevate prima di trovarci nel culo di sacco finale, non scopro perplessità molto diffuse nel corpo di tutta la magistratura. Devo dire che Procura Nazionale Antimafia e ANM Audite non hanno mai sollevato questo particolare punto di vista. Così... Ma quindi, Ministro, l'ipotesi decreto correttivo? No, decreto io lo escludo. Io credo che noi dobbiamo fare un monitoraggio serio, e credo che si possa anche intervenire in altra sede, ma noi non abbiamo mai utilizzato, questo è un altro problema, un decreto per intervenire in materia penale. E quindi se ci sarà l'esigenza, ci sono una serie di provvedimenti che riguardano la giustizia in itinere, li potremmo anche utilizzare. E allora ci si chiede: e se mentre si discute e si polemizza sull'aggravante mafiosa, sulla capacità di riconoscere e valutare fenomeni nuovi, non si dia semplicemente a questi gruppi tempo e modo di radicarsi ulteriormente?